senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove e senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorata, e adesso guarda che sei tutta bagnata. Piove, Madonna come piove, prima che il sole ritorni a farci festa. Piove, senti come piove, senti le gocce battere sulla tua testa. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Senti le gocce che battono sul tetto, senti il rumore girandoti nel letto. Oh, rinascerà, sta già nascendo ora. Senti che piove e il grano si matura, e tu diventi grande, ti fai forte, e quelle foglie che ti sembravano morte. Oh, popolo, andremo un'altra volta, è la primavera che bussa alla tua porta. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Tue piantine si erano seccate, non sarebbero cresciute più. Hai aspettato un po', ma senti come piove sulla tua testa, senti come viene giù. Non eri tu che ormai ti eri rassegnata, e che credevi che non ti saresti più innamorata. La terra a volte va innaffiata con il pianto, ma poi vedrai la pioggia tornerà. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Senti come viene giù, senti come viene giù, senti come viene giù, piove, Madonna come piove, senti come piove, Madonna come viene giù, senti come viene giù, senti come viene giù, senti come viene giù, senti come viene giù. Si sente bene, no? Si sente bene? Oh yeah. Allora, visto che si sente bene, sentite questo. Vai Pier, una canzone d'amore.